Pronto, don Andrea? Pronto, don Tino. Buonasera, don Andrea. Buonasera, buonasera. Continui a illustrarci questo libro meraviglioso che hai voluto scrivere sotto ispirazione, che si intitola Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegan, dell'Opus Dei di Milano, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paolini. Siamo arrivati al 7° capitolo, a Betlemme senza indugio, pagina 72. A te la parola. Grazie, Santino. Ecco, sì, questo capitolo 7, in questo capitolo 7, a Betlemme senza indugio, mi soffermo un po' su quello che accade tra le notte, che abbiamo descritto nel capitolo precedente, e poi il momento in cui devono andare a Betlemme, come sappiamo dal Vangelo, a motivo del censimento che è stato indetto, no? E che quindi i loro programmi riguardo alla nascita del bambino cambiano, perché ecco, si recano a Betlemme appunto invece di rimanere a Nazareth. Come sempre faccio, come in tutti gli altri capitoli rispetto al primo, faccio parlare prima Giuseppe. Ecco, quindi nel capitolo in cui parla Giuseppe, il suo paragrafo l'ho intitolato Vivevo accanto al mistero. E Giuseppe si racconta così. I mesi successivi al matrimonio furono tra i più sereni della mia vita. Ci preparavamo alla nascita di Gesù, portavo avanti il lavoro, mettevo da parte i pochi denari che guadagnavo e sistemavo la casa. Maria preparava il corredo per il bambino, la culla, i vestitini, i panni. Vivevo accanto al mistero, lo vedevo crescere. Mi chiedevo come ogni padre, come sarà? Ma ancora di più, come sarà questo frutto dello Spirito Santo? Ecco, io nel rileggere queste parole di Giuseppe, in questo settimo che dico, ho pensato ecco, che Giuseppe vive un po' la trepidazione di ogni padre, no? Anche di ogni madre, perché il bambino che nasce comunque sempre è un mistero e non lo si conosce finché non lo si ha tra le braccia, e poi anche lungo la vita, lo sviluppo di questo figlio è sempre una novità per i genitori, ma cioè è loro figlio, gli assomiglia, però allo stesso tempo è un altro, e quindi a volte non corrisponde alle loro aspettative, ai loro sogni, è diverso. E quindi Giuseppe, da questo punto di vista, secondo me è un po' anche il paradigma di ogni padre, perché rispetto ad ogni altro padre lui in più aveva questo mistero del figlio di Dio, che quindi aumentava in qualche modo la sua trepidazione, la sua domanda, e anche quello che adesso poi gli faccio dire, quindi questi dubbi, questi timori. A volte mi assaliva di nuovo il dubbio di non farcela, di non essere all'altezza. Arrivava come un improvviso peso sul petto che saliva fino al volto facendomi impallidire. Maria se ne accorgeva dallo sguardo o dal tipo di silenzio. Se ero assorto nel lavoro non succedeva nulla. Se il silenzio derivava da un problema dentro di me, lei lo sapeva subito. Ecco, mi soffermo un attimo perché penso che questo sia un passo molto bello per me. Quindi Giuseppe ha la trepidazione, il timore di non essere all'altezza, e al contempo gli viene chiesto da Dio e anche dal suo ruolo di sposo e di padre che custodisce questo figlio di Dio, di essere padre, cioè di essere fortezza, di essere solidità per la moglie e per il figlio, no? A volte i padri possono notare questa dislacerazione, cioè tra il fatto che devono essere solidità su cui si appoggia tutta la famiglia e allo stesso tempo si sentono magari inadeguati, però devono riuscire a fare questo passo. E chi li può aiutare? Ecco, la moglie senz'altro li può aiutare, come accade nel caso di Giuseppe. Maria gli dà quella fortezza che Giuseppe è chiamato ad avere anche per aiutare lei, è una specie di gioco dell'amore, no? Allora Maria se ne accorgeva dallo sguardo, dal tipo di silenzio, ecco, si avvicinava, mi prendeva la mano e mi faceva accarezzare il suo grembo, poi il suo volto, e baciava le mie mani, poi mi stringeva in un abbraccio che mi diceva tutto il suo amore. E quindi a questo punto del libro c'è anche un bellissimo acquerello viene Maria Trevisan, dove c'è Maria accanto a Giuseppe, si prendono la mano nella mano, ecco, esprime un po' questo valore della tenerezza. In quegli abbracci imparai il valore della tenerezza. Il più delle volte il suo abbraccio, le sue carezze, i suoi baci erano silenziosi, dicevano già tutto con un linguaggio che andava direttamente al cuore. Altre volte li accompagnava con parole dolcissime. Una volta, per esempio, confidandomi, le dissi che il momento difficile, quando stavo vicino a lei, si dissolveva, e lei mi rispose: non c'è altra via. La tenerezza è l'unica strada che permette al dolore di trasformarsi in amore. Ecco, io con questa frase che ho messo sulla bocca di Maria ti esprimo un'esperienza che probabilmente è molto diffusa, no? Senz'altro è molto diffusa tra i genitori rispetto ai figli, no? Cioè, quando il bambino è piccolo, tutte le madri, tutti i padri hanno l'esperienza che, appunto, no, il bambino cade, si fa male, piange e poi basta un bacio per far passare tutto, no? È questa esperienza che è molto diffusa, universale. Però poi può essere vissuta dagli sposi anche tra di loro, quindi vincere la tentazione che il mio amico sempre cerca di mettere distanza, insomma, ecco, difficoltà nel rapporto tra marito e moglie, invece vincerla proprio con il coraggio di questo linguaggio della tenerezza che è capace di trasformare il dolore in amore. E aveva ragione, dice Giuseppe, il timore di non essere adatto, di non essere al posto giusto, mi bloccava. A volte la paura ci blocca, no? E quindi ci fa chiudere. E quindi, ecco, quando uno deve essere padre, se ha paura, perde un po' il suo ruolo di padre. Invece no, dobbiamo tutti noi, anche penso anche i sacerdoti che devono essere padri, no? Non farsi bloccare dal timore, dalla paura, ma con l'amore di Maria, del cuore di Maria, del cuore di Gesù, dobbiamo essere coraggiosi ed essere padri, sostenere, aiutare. E non pensare a noi stessi, no? Giuseppe confida, mi bloccava, mi incuteva la paura di perdere l'amore, ciò mi procurava una grande sofferenza che mi allontanava ancora di più dai miei amori. Purtroppo c'è questa logica, ecco, un po' di tentazione che dobbiamo imparare a vincere con l'aiuto di Maria e di Giuseppe. Sentire con tutto il mio essere il suo amore era proprio curativo, mi tornava la gioia di essere stato scelto da Dio per l'amore a Maria e a quel bambino che ormai era anche figlio mio. Io proprio spero, sto sentendo in questi giorni molti sposi che leggendo questo libro vengono aiutati, e veramente spero che Maria e Giuseppe aiutino tutti gli sposi a percorrere questa strada, ecco, vincere le tentazioni della freddezza, della distanza, dell'incomprensione, proprio con, e anche della paura di non farcela, proprio con la tenerezza dell'amore che li unisce di nuovo. Nell'abbracciare Maria capivo che mi perdevo in lei, in qualche misura era come morire alle mie paure, alla mia preoccupazione per ciò che gli altri pensavano di me e per il giudizio di Dio. E rinascevo all'amore. Lei mi donava un balsamo di serenità che mi faceva assaporare il paradiso. La sua pace si diffondeva come un fiume placido e tranquillo nella mia anima e nel mio corpo. Sentivo che attraverso il morire a me stesso, per amore di Maria e di Gesù, io donavo anche a loro vita e protezione. Ecco, avrei dato il nome a Gesù. Quindi Giuseppe, che si rende conto che Maria e Gesù lo superano nei doni di Dio, evidentemente, no? E Gesù è Dio stesso che ha preso la nostra carne, però allo stesso tempo sa che se lui dona loro la vita, ecco, gli sta dando la vita in qualche modo, gli sta dando la protezione. Avrei dato il nome a Gesù, l'avrei aiutato a muovere i passi nella vita umana, a crescere come uomo. Dio mi aveva scelto come padre, come sposo di sua madre. Ero l'uomo più privilegiato e felice del mondo. Ecco, io in queste poche parole cerco di esprimere quello che può essere tutto un lavorio interiore suo, di Giuseppe, che lo porta dalla paura, dal timore, dall'oscurità, invece alla luce e alla gioia. Erano vicini i giorni del parto, quando arrivò il decreto di Cesare Augusto che ordinava un censimento su tutta la terra. Gli ordini erano chiari: saremmo dovuti andare a Betlemme. Avevo un piccolo terreno di mia proprietà laggiù e questo particolare mi impediva di evitare quel lungo viaggio. Volevano capire quanti eravamo, ma soprattutto sapere di quali proprietà disponevamo per poi imporci le tasse. interessante. Subito dopo la nascita del bambino, io ho messo sulla bocca di Giuseppe, sul suo pensiero, un po' di dettagli che ho studiato di tipo storico, ma si capisce, lui è il padre della famiglia e quindi conosce gli aspetti giuridici, gli aspetti anche di civili che li coinvolgono. Andiamo subito dopo la nascita del bambino. Maria optò per la prima ipotesi, il viaggio con il neonato sarebbe stato complicato sia per la madre sia per il bambino. Ero timoroso, ne parlammo a lungo, soppesavamo insieme i pro e i contro. Com'era bello decidere con lei, integrava i miei pensieri. Ecco, io metto insieme sia il fatto che a volte appunto Giuseppe e Maria, come ogni marito e moglie, devono decidere insieme cose molto pratiche della loro vita, un viaggio, una vacanza, dove farlo, una spesa, eccetera, e che a volte discutere può essere faticoso, però è bellissimo se lo si vede dal punto di vista positivo, e com'era bello decidere con lei, integrava i miei pensieri, perché allora sia Maria che Giuseppe mettono insieme il loro modo di vedere le cose e alla fine trovano la soluzione. Mi domandava, ascoltava, rifletteva, obiettava, argomentava, si illuminava, sorrideva, taceva. È bellissimo questo, vedere Maria attraverso gli occhi di Giuseppe. Si concentrava seria, cercando di capire se Dio ci avesse dato qualche indicazione o se ce la volesse dare. Le invocavamo: se andiamo a Betlemme, tuo figlio nascerà senza una casa, non sappiamo se troveremo un alloggio adeguato, è possibile che tu voglia questo per lui? Ecco, a me, io lo dico per me stesso, no? Quando abbiamo questi, che non sappiamo che fare, dovremmo andare alla preghiera, no? A chiedere luce. Maria mi disse: ricordi le parole che l'angelo mi rivolse, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre? Forse l'Altissimo vuole che suo figlio nasca a Betlemme perché si sappia che è il Messia promesso a Davide. Anch'io ricordai allora che l'angelo mi aveva detto in sogno: Giuseppe, figlio di Davide, non temere. Quindi Davide e la sua discendenza erano presenti nelle parole che avevamo ricevuto dal cielo. Betlemme, casa di Davide, doveva entrare nella vita di quel figlio che stava per nascere. In quel momento entrambi vennero alla memoria quelle parole del profeta Michea, a cui non avevamo prestato particolare attenzione. E tu, Betlemme di Efrata, di piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Ma io mi diceva: vedi Giuseppe, Dio si innamora sempre della piccoletta, come ha fatto con me, in questa Betlemme piccolina. Sì, io penso che anche per noi può essere bello vedere Maria e Giuseppe che consultano la Sacra Scrittura e pregano, e da lì ottengono luce e anche si riferiscono alle illuminazioni che l'angelo ha dato direttamente a loro. Io le rispondevo: senti che cosa dice ancora, perciò Dio li metterà in potere altrui, sempre Michea. Ricordi Maria quante dominazioni straniere abbiamo sopportato, adesso questi romani che ci obbligano al censimento. Ma il profeta dice che questo sarà solo fino a quando partorirà colei che deve partorire. E sei tu, Maria, e di tuo figlio dice meraviglie. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Partimmo allora per Betlemme senza più indugio. Quindi io così mi sono immaginato Giuseppe e Maria discutere tra di loro, ricordarsi dell'angelo e anche andare alla Sacra Scrittura che loro conoscevano e avere da lì, da tutto questo insieme, un'illuminazione di Dio che non ha tolto la loro libertà, la loro decisionalità, cioè, la loro anche, insomma, la loro fantasia per capire qual è la soluzione più giusta. Don Andrea? Sì, sono io. Io approfitto. Adesso tu devi cambiare, adesso parla la Madonna, no? E approfitto per fare molti complimenti a questa signora acquarellista, che è stata molto brava nel dipingere, diciamo, due sposi, un matrimonio virginale, ecco. Esattamente, bravo, è stato proprio così. Lei ha saputo, diciamo, prendere ispirazione dalle mie parole e ha saputo dipingere, così come lo dico con le parole, lei l'ha detto con le immagini, proprio questa grande amore e al contempo questa grande delicatezza che c'è tra tra i due sposi. Sono davvero eccezionali queste. Sì, sono bellissime queste acquarelle, arricchiscono davvero molto il libro. Sì, e poi, anche poi sono molto grato. In un unico colore. Monocromatici, sì, lei spesso fa così. Poi questo ha facilitato anche l'edizione, che quindi ha potuto essere meno costosa perché più colori. Però lei l'ha scelta proprio come. Sì, sì, ho capito, benissimo. Pittorico. Allora adesso prosegui. È tutto improvviso e inaspettato. Tutto improvviso e inaspettato. Maria dice, lo dice dal punto di vista suo, come sono stati quei mesi di matrimonio. In quei primi mesi di matrimonio cercavo di dare il meglio di me stessa a Giuseppe e vivevo tutto con il bambino in seno che cresceva. Insieme, io e Gesù nel mio grembo, ci avvicinavamo a Giuseppe e così lo univamo a noi. Siamo una famiglia e tu sei padre, gli dicevo. Gli facevo ascoltare il battito del cuore del bambino per sapere i suoi movimenti. Gli dicevo, quando ti avvicini, lui è contento, balla nel mio grembo, scalcia di gioia quando sente la tua voce in lontananza, i tuoi passi. Maria fa con Giuseppe quello che tutte le madri fanno, no? Di aiutare il padre a rendersi conto che è padre e che il figlio è felice di ritrovarla. No? Eravamo felici nella nostra casa, ci sentivamo protetti dagli sguardi indiscreti e dalle voci maldicenti. L'intimità di quella casa allargava l'intimità del grembo e Gesù si sentiva protetto e custodito. La storia del censimento fu un fulmine a ciel sereno. Dicevo a Giuseppe, così è stata anche la mia chiamata da ragazzina, la promessa di matrimonio, così è stato l'annuncio dell'angelo a me, il tuo vedermi incinta, il sogno di quella notte, tutto improvviso e inaspettato, fuori dai programmi. Il Signore ci vuole vigili e attenti alla sua voce. Ecco, a me aiuta a vedere, cioè rileggere anche queste parole che ho messo sulla bocca di Maria, pensando al suo pensiero riguardo alla sua vita, perché effettivamente anche noi qua capitano nella storia della nostra vocazione di avere alcune chiamate, e soprattutto quelle che cambiano un po' l'orientamento della nostra vita, o che sono improvvise e inaspettate, no? Altre volte il Signore ci prepara, cioè sempre ci prepara il Signore, però l'annuncio può essere improvviso e inaspettato, quindi anche quel dover andare a Betlemme è improvviso, inaspettato e cambia la loro vita. Giuseppe soffriva perché si riteneva inadempiente davanti a Dio. Gli spiegavo, non puoi cambiare la storia del mondo. Che accade, anche se tu non vuoi? E questo tuo figlio, il figlio dell'Altissimo, ha deciso di entrare nella nostra storia e di seguirne il percorso. Questo è molto bello, ma c'è come... Dico bello, non perché ho scritto, ma è bello il pensiero che mi è stato passato. Quindi c'è che la storia, c'è che Dio rispetta nell'incarnarsi sia tutta la nostra natura umana, che prende, tranne il peccato, lo prende tutto, e poi anche la storia che lui stesso ha costruito, ha creato, no? Cioè diciamo nella storia. Quindi accetta tutte le vicende storico-sociali, economiche che accadono attorno a lui, e Maria in questo aiuta Giuseppe a non sentire sulle sue spalle il peso enorme e impossibile da portare, di pensare io non sono adatto a essere padre del figlio di Dio perché non posso intervenire su questa vicenda del censimento. Questo lui proprio non può, e Maria glielo spiega, no? Quindi molto spesso anche noi dobbiamo fare come un atto di umiltà, di sapere i nostri limiti, di saper accettare le vicende della storia, le circostanze nelle quali il Signore ci mette. Ma nascerà senza una casa, mi diceva Giuseppe, che io, è quello che lui vuole, Maria spiegava Giuseppe, è ciò che hanno predetto i profeti, siamo docili al suo volere, la sua casa è il mio grembo, poi Dio provvederà. In seguito, lungo la vita, compresi che è sempre senza casa chi segue mio figlio. Giuseppe trovò porte chiuse a Betlemme, i pastori che lo videro per primi erano senza dimora, i magi giunti dall'Oriente avevano lasciato la loro casa per venire a vedere il bambino. Bello. E io penso anche, una volta mi è venuto in mente, pensando ai misteri del Rosario, che Maria in fondo è a casa sua solo nel primo mistero, in tutti gli altri 20, negli altri 19 è sempre fuori da casa sua, no? Quindi veramente anche lei per seguire Gesù ha dovuto lasciare la sua casa, no? E Giuseppe, dopo le prime resistenze, fu docile, dice Maria, come sarebbe stato sempre nella sua vita, e ci protesse nel viaggio, mi aiutava a salire sull'asino e diceva: non dovete preoccuparvi, accarezzandomi con dolcezza infinita. Ecco, mi piace concludere questo capitolo con questa frase, come a vedere che Giuseppe, nonostante tutti i timori, le incertezze, le cose che non capisce, aiutato da Maria, riesce a riprendere la forza di essere padre, che cioè, diciamo, sposa di Maria e padre di questo figlio, e dare a loro tutta la fortezza di cui loro hanno bisogno per essere accompagnati in quel tratto della loro esistenza. Certo che hai fatto una cosa veramente grandiosa, eh? E anche questo aiutarsi nella fede oltretutto. Anzi, nella fede, sì. La cosa principale. Credono appunto alla provvidenza di Dio, cioè è Maria soprattutto, no, che aiuta Giuseppe nella fede, ma Giuseppe è docile, ascolta e si lascia illuminare nella fede di Maria. Bellissimo. Non ho parole, don Andrea. Guarda, Antonio, si vede che appunto io, anch'io nel leggerlo mi meraviglio, mi sorprendo, cioè ovviamente vedo che è molto bello, e evidentemente c'è stato un po', cioè nella preghiera anche con diversi aiuti, però insomma, sicuramente anche Giuseppe Maria mi hanno aiutato a... Certo, è un libro che mancava, eh? Veramente mancava, sì, effettivamente, perlomeno io non ne conosco altri di questo taglio, e penso che possa aiutare molto un po' tutti, no? Quindi perché appunto... E tutti ci possiamo ritrovare, e ritrovare più vicini Giuseppe e Maria, e così, senz'altro gli sposi, poi gli fidanzati, poi, però anche tutti noi, anche i celibi, anche i sacerdoti, perché appunto anche noi possiamo avere vicende simili nel portare avanti la nostra vocazione, e Maria e Giuseppe ci possono confortare, consolare e dare forza, no? e dare orientamento di fede. Sì, quindi è un libro che aiuta molto i fidanzati e poi gli sposi. I fidanzati e gli sposi, sicuramente io sto notando che alcuni parroci a cui lo faccio conoscere, sì, sono molto contenti e lo stanno un po' appunto diffondendo agli sposi che accompagnano l'altare come uno degli aiuti per riuscire a vivere la loro vita da sposi, con questo dialogo umano e divino allo stesso tempo, di chiarezza e di fede, di visione di provvidenza, e anche di aiutarsi a vicenda a superare le difficoltà che inevitabilmente accompagnano ogni esistenza, come hanno accompagnato la vita di Giuseppe, di Maria e di Gesù. Certo, bellissimo. Allora ridiamo gli estremi del libro. Il libro si intitola Giuseppe e Maria. Sottotitolo La nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegan, che sarebbe dell'Opus Dei di Milano. Acquerelli di Anna Maria Trevisan, Edizioni Paoline. E poi sempre facciamo riferimento a Giuseppe Maria e Escrivá de Balaguer, che quasi quasi è lui che te l'ha ispirato questo libro. Probabilmente sì. Che lui si chiamava così, Giuseppe Maria. Adesso ci dai una bella benedizione? Sì, appunto. Molto volentieri, Don Tino, a te, a tutti coloro che ascoltano Radio Maria, a tutti i loro familiari, amici e conoscenti, in particolare i figli, i bambini, allora e i malati. Io do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Giuseppe e di Maria, di San José Maria, e discenda su di voi tutti e rimanga sempre. Amen. E grazie infinite, Don Andrea, e alla prossima volta, e continua a pregare per noi e a ricordare